Gli speciali di Radio 24. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questo nuovo speciale che abbiamo deciso di dedicare all'emergenza nel centro Italia. Un'emergenza che ha a che fare con la neve che cade da giorni e che in alcuni punti arriva fino ai 2, addirittura ai 3 metri, a seconda naturalmente di come la trascina il vento, e dall'altra parte il terremoto che ha colpito ieri una serie di zone sempre del centro Italia, con epicentro in Abruzzo, una serie di scosse di cui le più forti sono state 4, tutte sopra il 5 di magnitudo. Un'emergenza che riguarda soprattutto l'Abruzzo, ma che tocca anche le Marche, in parte tocca anche l'Umbria, con tutte le difficoltà che ci sono per cercare di raggiungere le popolazioni colpite, perché le strade sono bloccate, sono molto difficili da percorrere. Il luogo centrale dell'emergenza di queste ore, quello sul quale i riflettori sono puntati, è alle pendici del Gran Sasso. Farindola, un paesino di 1500 abitanti, la cui frazione più alta è Rigopiano, che si trova a 1200 metri sul livello del mare. E qua c'è l'hotel Rigopiano, appunto, sul quale si è abbattuta quella che sembra essere una valanga, sembra essere una slavina, ma probabilmente c'è molto di più. Ci sono altri detriti, perché ha trascinato letteralmente via un pezzo di bosco. Al momento, appunto, sono stati estratti finora 4 corpi. I soccorritori stanno lavorando molto intensamente. Cerchiamo di fare un punto partendo proprio da qua, poi vedremo nel corso di questo speciale che andrà in onda fino alle 18.30, per il quale i microfoni sono aperti all'800 24 0024, così come è aperto il numero di sms per i messaggi WhatsApp, il 349 238 6666. Potete chiamarci per segnalarci anche situazioni particolari, situazioni di bisogno, naturalmente, e non solo per quello, come si diceva in questo speciale, nel quale tra l'altro daremo anche un breve spazio alle notizie economiche, come sarebbe, come è canonico fare in questo orario con Focus Economia. Iniziamo a fare un punto proprio da qua, poi allargheremo lo sguardo, andremo all'Abruzzo, andremo a vedere anche la situazione nelle Marche e nell'Umbria. Laura Bettini, iniziamo dunque da Rigopiano, eccoci. Facciamo un riassunto delle ultime notizie che sono arrivate. Come dicevi, ci sarebbero 4 vittime, diciamo che siamo sicuri del fatto che ce ne siano 2, le ultime due non sono ancora ufficialmente confermate, ma è una notizia che gira sui quotidiani locali. Noi abbiamo citato il centro di Pescara, che appunto riferisce di altri corpi che sono stati estratti dalle macerie di questo albergo a 1200 metri di altitudine. La frana un po' mescolata a una valanga, sarà da stabilire, ma insomma la potenza di questa valanga è stata così grande che è impossibile pensare che si trattasse solo di una valanga. È accaduta ieri nel pomeriggio. L'allarme è stato lanciato da un sopravvissuto, che poi è stato appunto ha raccontato, e noi sentiremo tra pochissimo quello che ha raccontato, insomma le persone che l'hanno raggiunto. È stato lanciato questo allarme attorno alle 18, poi è iniziato il viaggio dei soccorritori. È stato un viaggio devastante, ci hanno messo circa 20 ore ad arrampicarsi là in cima e poi a discendere fino a raggiungere questo albergo. L'hanno fatto con gli sci, lo dicevamo stamattina, le pelli di foca. Sono arrivati sul punto, lì hanno cominciato a cercare di scavare. La situazione è complicatissima, hanno dovuto portare ovviamente macchinari adeguati, sono arrivati poi altri, e così durante tutto il giorno si è continuato a cercare di raggiungere i clienti dell'albergo. Una trentina sappiamo essere questi clienti, forse 35, comunque quello sembra essere il numero massimo, perché 20 clienti registrati più il personale, forse qualcuno che poteva essere arrivato. Tutte queste persone, dopo il terremoto di cui tu parlavi, Simone, si erano radunate nella hall con l'idea di andare via, ma si aspettava che gli spazzaneve pulissero le strade. Questo accadeva attorno alle 15 di ieri pomeriggio. Lo spazzaneve non è arrivato all'ora in cui si pensava sarebbe arrivato, e quando poi dopo non è mai arrivato in realtà, perché c'è stata questa slavina che ha impedito a loro di andare via e allo spazzaneve ovviamente di salire dal paese di Farindola fino all'albergo. E questa è la situazione al momento, perché in realtà da là si hanno davvero pochissime notizie, perché ci sono solo i soccorritori, perché tu hai parlato poco fa anche, no, con il Ministero dell'Interno e ti hanno detto noi abbiamo mandato personale, non sappiamo se stasera riuscirà a rientrare il vice ministro Bubbico oppure non riuscirà a rientrare, perché là è una situazione purtroppo congelata in tutti i sensi, per il freddo, per la neve e perché non si sa come si proseguirà nelle prossime ore. Si va avanti a cercare. Sì, questo è il punto al momento per quanto riguarda questo specifico caso, il caso dell'hotel Rigopiano. Avevamo pochi istanti fa in linea anche il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso. Vediamo se siamo in grado di raggiungerlo di nuovo. No, non siamo in grado di raggiungerlo di nuovo, è caduta la linea. Uno come dei capite, problemi è quello dei, esatto, come capite, le comunicazioni sono anche difficili e anche neanche i colleghi giornalisti, esatto. Non è una questione di voler dare le notizie, è voler riuscire ad arrivare e poi collegarsi con il resto d'Italia, esatto. Esattamente, e questo vale non solamente ovviamente per Rigopiano, non vale solamente per Farindola, ma praticamente per molte zone dell'Abruzzo, nelle quali le difficoltà non sono solamente queste, e ci arriveremo più avanti, ma ci sono i paesi che poi sono l'epicentro del terremoto, nei quali ci sono difficoltà che riguardano anche l'approvvigionamento di acqua, l'approvvigionamento di cibo e naturalmente l'energia elettrica, che è stato uno dei grandi problemi di queste ore. Ci ha raggiunto intanto in studio la nostra Raffaella Calandra, che sta cercando di raccogliere anche qualche voce e qualche testimonianza diretta. Raffaella, chi hai trovato? Simone, sto cercando di avvicinarmi il più possibile all'hotel Rigopiano, e poco fa ho parlato con il sindaco appunto di Farindola, Ilario Lucchetta, che è proprio lì da ore ormai, che purtroppo ci ha dato anche una brutta notizia, che i bambini dispersi non sono 3 ma 4, e lui ha parlato anche con uno dei due sopravvissuti, e forse possiamo sentire il racconto del sindaco Lucchetta, il cui audio, come per le ragioni che dicevate poco fa, non è proprio dei migliori. Sindaco, ci sono anche dei bambini all'interno dell'albergo, vi risultano? Purtroppo sì, sono 4. 4 bambini? 4 bambini, sì. Sono figli di ospiti, di turisti che erano lì, persone del posto? Sì, 24 ospiti, di cui 4 bambini. Ecco, invece le persone che sono state già tratte in salvo, lei le conosce? Un ragazzo è il manutentore dell'hotel, quindi lo conosco bene, della vicina Penne, e un altro invece era un ospite, mi sembra, di Montesilvano. Ha avuto modo di incrociarli, di sentire il loro racconto? Sì, il manutentore, ci ho parlato anche stamattina, chiaramente cioè, cercare di dargli un po' di sollievo, visto che ha anche la sorella sotto le macerie. E che cosa le ha detto? Ha detto che non si è accorto di nulla, è stato un brevissimo lasso di tempo silenzioso, la cosa che lo ha sorpreso. Silenzioso, e non si è ritrovato travolto all'interno di un locale caldaia che è un vano in cemento armato che l'ha protetto da tutto, insomma. Quindi lui era al di fuori per caso? Immediatamente liberato, si ha provato a cercare aiuto e a sentire se ci fossero voci, ma non ha trovato solo l'altra persona che era in difficoltà come lui, e gli altri non. Par di capire dai soccorritori che chiamano le persone ma non ricevono per ora risposte, segnali, giusto? Esattamente, sono anche azioni di antocinofile, di vigili del fuoco, ma senza risultato. Questo il racconto che ha raccolto la nostra Raffaella Calandra, che adesso è in studio con noi, poi cercherà altre voci. Nel frattempo noi ci colleghiamo con Luigi Cannavici, che è il sindaco di Campotosto, che è stato epicentro del terremoto di ieri e che in una situazione difficilissima. Sindaco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei. Allora, mi sembra di aver capito, senza acqua, con difficoltà di approvvigionamento di viveri, senza elettricità, conferma? No, l'elettricità c'è. È tornata? L'elettricità c'è. Quello che ci manca è l'acqua potabile in 2 frazioni. Purtroppo, perché già lì avevamo carenza di acqua potabile, la situazione di adesso l'ha aggravata, ovviamente. vero problema che noi abbiamo al momento non è tanto questo, quanto che due stazioni del comune, in cui siamo in quattro, compreso il capoluogo, non sono ancora state raggiunte dai mezzi. Perché ho visto sindaco che è stata raggiunta Ortolano da che è una frazione. Allora mi dà lei una notizia che io sto a mettere a fame. No, Ortolano, guardi, glielo dico perché l'abbattono le agenzie. Immagino che anche per voi dallo stesso territorio sia difficile trovare le notizie. Riusciamo a comunicare perché sì. Vodafone non funziona lì, probabilmente le persone che contattiamo hanno tutto il telefono Vodafone, ci dicono che è spento, è raggiungibile. Quindi sicuramente c'è qualche problema sul ponte radio. Allora qua ci dicono, sindaco, così glielo dico e lo sa insomma, che un elicottero della Guardia di Finanza ha recuperato 21 persone ad Ortolano e quindi su questo fronte comprare perché c'è una frana che è sopra Ortolano che rischiava di smontare a un'altra scossa di terremoto, quindi l'abbiamo fatta evacuare. Io mi ero rivolta ai vigili del fuoco per questa operazione, quindi poi hanno coordinato loro la faccenda e ci sono sì. Prego. Le persone sono state evacuate. Invece la frazione che ancora non è stata raggiunta, c'è un problema perché le persone sono letteralmente chiuse in casa, nel senso che non riescono ad aprire la porta per la quantità di neve che c'è. E se non si raggiungono queste persone, loro non riescono nemmeno a uscire in caso di una forza del morto. Cioè sono intrappolate dentro casa. Quindi non anche lì io quello che sto, l'ultima notizia che ho. Perché una presa è a 2 o massimo 3 chilometri dal paese, ma ancora non lo raggiunge. Allora, si sta facendo notte, lei può immaginare qual è la situazione. Lo immagino bene. Allora, grazie intanto a Luigi Cannavici, che tra l'altro abbiamo sentito non particolarmente bene per ovvi motivi, insomma, per ovvi motivi di linea, il sindaco di Campotosto. Per riassumere, nel caso nell'uscita in radio non si fosse sentito bene quello che ci ha raccontato, ci ha detto che, come avete sentito, una frazione è stata evacuata perché c'era un rischio frana, c'era un rischio che una frana cadesse sopra questa frazione, la frazione di Ortolano. C'è un'altra frazione invece che non è stata ancora raggiunta, nella quale la neve ha raggiunto i livelli talmente alti che la gente non è in grado di uscire di casa e quindi se non arrivano i soccorsi c'è il rischio che questa gente sostanzialmente rimanga prigioniera dentro le case, ed è proprio quello che si sta cercando di fare con una fresa. Si sta cercando di raggiungere questa frazione per cercare di aiutare queste persone. A proposito delle informazioni che abbiamo dato sulla carenza di energia elettrica, voglio essere chiaro con qualche ascoltatore che scrive: ma non date informazioni a caso. Non sono informazioni a caso, è quello che ci ha raccontato non più tardi di 3 ore fa il coordinatore della Croce Rossa abruzzese, il quale proprio da Campotosto si sta muovendo verso Teramo, e quindi non sono informazioni casuali, sono informazioni vere, e ci serve anche dare voce ai sindaci, alle persone che si trovano in questi luoghi, proprio per riuscire a raccontare, a dare un'idea di quello che sta succedendo ed eventualmente essere di aiuto appunto a chi fosse in ascolto, anche tra eventuali persone che potessero dare una mano nei soccorsi. Laura Bettini, volevi intervenire? Sì, su questo tema. A proposito di elettricità, nel pomeriggio è stata rialimentata la cabina primaria di Teramo, zona industriale. Questo significa, dice Terna, che le infrastrutture di alta tensione sono rientrate nella normalità in tutte le province abruzzesi. Questo non significa però, di contro, Simone, ovviamente, che tutti quanti hanno di nuovo l'elettricità. Vuol dire che si sta ripristinando quello che serve per portare l'elettricità in tutte le case. Questo è. Antonio Marasco è il responsabile compartimentale ANAS dell'Abruzzo. Buongiorno Marasco, benvenuto. Sì, buonasera. Immagino che siano ore molto intense per lei, quindi la ringrazio, così come ringrazio le altre persone che sono intervenute per l'intervento e per il tempo che ci dedica. Riuscite ad avere una misura di quante strade non sono percorribili? Ma noi diciamo durante questo evento di intensità assolutamente eccezionale, come appare chiaro, non abbiamo, abbiamo brevissimi tratti di strade chiusi in questo momento, e mai diciamo tratti che non servissero centri abitati. Cioè, nessun centro abitato che afferiva sulla strada statale è stato mai isolato in questi posso dire 14 giorni, pensando che il primo evento di precipitazioni nevose è cominciato a partire dal giorno 5 gennaio. In questo momento abbiamo 3 tratti chiusi, sono dei tratti diciamo di passi e sono, che non servono diciamo direttamente dei centri abitati, o meglio i centri abitati sono serviti da monte a valle della statale, sono sull'80, sulla 5, sulla 696. Sì. Tutto il resto, diciamo, della viabilità è perfettamente percorribile con uno sforzo enorme del nostro personale. In questo momento quasi il 50% delle nostre forze, forse anche di più del 50%, è impegnato a dare soccorso su altra viabilità, come ho sentito il sindaco di Campotosto, la fresa che si sta avvicinando alla frazione, proprio una fresa ANAS, come ieri sera siamo entrati con un nostro mezzo per portare la prima colonna di soccorso di carabinieri, corpo forestale, eccetera. Sì, perché ovviamente quelle strade non sono di vostra competenza, però no, ovviamente no, no. Mettete in campo il personale che serve a risolvere l'emergenza. Se non sbaglio era ANAS proprio anche quella fresa che è stata portata per aprire un po' la strada a raggiungere l'hotel, no? Travolto dalla valanga. Assolutamente, sì, ne abbiamo usate addirittura due a tempo pieno. Come ha detto bene, la fresa che è arrivata all'hotel è proprio una fresa ANAS. Tra l'altro queste macchine in regione, da quello che so, sono solo, diciamo, nelle disponibilità, almeno di questa potenza, sono solamente nella disponibilità ANAS. Allora, grazie ad Antonio Marasco, che è responsabile compartimentale ANAS dell'Abruzzo, abbiamo in linea il capitano dell'esercito Carmine Manzo, che si trova a Teramo ed è una delle persone dell'esercito che sta intervenendo in questi territori in queste ore. Capitano, buonasera, benvenuto. Buonasera anche agli ascoltatori in linea. Come vanno le cose a Teramo? Diciamo che la situazione resta comunque critica. I militari dell'undicesimo guastatore di Foggia continuano a lavorare senza soluzioni di continuità, in particolar modo sul versante nord del Gran Sasso, quindi in particolare nei comuni di Isola del Gran Sasso, oppure andando ancora più a nord verso Sparazzano, Castrogno. Tendenzialmente sono tutti interventi di ripristino della viabilità e di tanto in tanto purtroppo ci sono delle emergenze riguardanti comunque famiglie che sono rimaste intrappolate e quindi hanno bisogno di generi di conforto, medicinali, e molte volte devono essere anche accompagnate presso strutture sanitarie. Quindi noi dell'undicesimo di Foggia continuiamo nel nostro lavoro e, come dicevo, senza nessun tipo di interruzione, quindi sono due giorni che lavoriamo giorno e notte ininterrottamente e continuano ad arrivare rinforzi comunque da, diciamo, qualsiasi parte d'Italia, ecco. Ok, sì, tra l'altro abbiamo parlato col sottosegretario Rossi questa mattina, ci ha raccontato che si stanno continuando a mettere in campo uomini dell'esercito, e ci ha anche segnalato, questo lo dico perché poi sta anche montando come al solito un po' di polemica sui tempi per l'arrivo dei soccorsi e per l'arrivo dei mezzi. Ricordatevi che tutti questi mezzi, per gestire una situazione con 2 o anche 3 metri, in alcuni casi addirittura 4 metri di neve, questi mezzi arrivano da varie parti d'Italia, quindi non è che arrivano nel giro di mezza giornata. Cioè, se devi portare una fresa da Bolzano per pulire una strada, non arriva in 5 minuti. Ed è anche normale, scusa Simone, che non ci siano 100 frese tutte in Abruzzo. Cioè, evidentemente, è perfettamente normale. Detto ciò, poi si farà chiarezza su ci sono stati ritardi, non ci sono stati ritardi, però al momento tenete anche presente in equilibrio, mettete in equilibrio le due cose, insomma, le due possibilità. Il fatto che evidentemente non tutti i mezzi e non tutti gli uomini siano disponibili immediatamente e che possano arrivare nei luoghi nei quali c'è una tragedia immediatamente, perché come avete capito nemmeno le istituzioni riescono a muoversi agilmente all'interno di questo scenario. Adesso ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo subito dopo, facciamo un breve punto come duopo per questo spazio radiofonico solitamente di notizie economiche, breve punto, e poi ritorniamo a parlare con questo speciale di quello che sta avvenendo, di questa emergenza nel centro Italia, e lo faremo fino alle 18:30. Pausa. Gli speciali di Radio 24. Siamo di nuovo in diretta, di nuovo buonasera da Simone Spezia insieme a Laura Bettini per questo speciale che stiamo dedicando all'emergenza nel centro Italia, un'emergenza dovuta soprattutto al maltempo, alla neve che è caduta così copiosa nelle ultime due settimane e soprattutto negli ultimi due o tre giorni, e soprattutto a quello che succede a Rigopiano, frazione di Farindola, e siamo nel Pescarese, alle pendici del Gran Sasso, dove in un albergo è stato investito da una slavina, probabilmente anche con una frana che ha trascinato via un pezzo di bosco e ha investito questo albergo sostanzialmente distruggendolo. All'interno ci sarebbero ancora 35 persone, si sta scavando nella neve cercando di capire se si possa estrarre qualche sopravvissuto. Tra un attimo torneremo a tutto questo e torneremo a raccontarvi che cosa sta succedendo nel centro Italia, ma come si diceva, come sempre in questo spazio, questo sarebbe lo spazio normalmente di Focus Economia, è giusto anche in questo momento darvi un aggiornamento su quelle che sono le principali notizie economiche di questa giornata e anche un aggiornamento di borsa, è quello che facciamo adesso. E per riassumere brevemente la giornata di oggi, come si caratterizza appunto dal punto di vista delle notizie economiche, vi possiamo dire questo innanzitutto, che è stata la giornata nella quale la Banca Centrale Europea ha riunito il suo direttivo, cosa che fa mensilmente, è stato deciso di lasciare invariati i tassi e questo era un fatto ampiamente previsto. Dall'altra parte la giornata si è caratterizzata per quello che possiamo definire una sorta di scontro tra il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble, il quale Wolfgang Schäuble oggi in un'intervista a Bloomberg ha dichiarato: non sono sorpreso dalle decisioni di oggi della Banca Centrale Europea, che sta facendo un buon lavoro, ma il suo orientamento, ha chiarito Schäuble, crea problemi politici in Germania. Queste le parole di Schäuble, che tra l'altro è anche intervenuto sulle dichiarazioni della premier britannica Theresa May in merito alla Brexit, la quale May dice ora ci vuole un negoziato duro per andare oltre l'Unione Europea, e Schäuble dice non si inizia un negoziato con le minacce. Ma a proposito dei problemi politici che le decisioni, la politica monetaria della Banca Centrale Europea può avere in Germania, dei problemi può creare in Germania, è intervenuto su questo anche lo stesso presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che oltre ad aver confermato il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli, ha detto anche è possibile un aumento di questo quantitative easing se lo scenario peggiora. Il ritmo al momento è di 80 miliardi mensili fino a marzo e poi un calo a 60 miliardi da aprile fino a dicembre 2017, e ha parlato anche appunto di dei risparmiatori tedeschi, benefici anche per loro, ha detto Draghi. Sentiamo. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre analisi abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad aspettarci che resteranno a livello attuale o più basso per un periodo prolungato di tempo, anche oltre l'orizzonte del piano di acquisti. Riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che gli acquisti andranno avanti all'attuale ritmo mensile di 80 miliardi fino a fine marzo 2017. Inoltre, da aprile 2017, gli acquisti continueranno a un ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017, o oltre se necessario. In ogni caso, finché non vediamo un aggiustamento sostenibile nel ritmo dell'inflazione, in linea con il nostro obiettivo. Tassi bassi sono necessari ora per avere tassi più alti in futuro. La ripresa dell'intera Eurozona è nell'interesse di tutti, anche della Germania. I risparmiatori, le imprese, le famiglie, i lavoratori tedeschi hanno beneficiato delle misure straordinarie varate dalla BCE, così come tutti gli altri cittadini della zona euro. Dobbiamo essere pazienti. Quando la ripresa si consoliderà, i tassi aumenteranno. As recovery will firm up, real rates will go up. A chi ci chiede se faremo l'aggiornamento di borsa, adesso lo facciamo. Prima fatevi dare un altro paio di notizie che riguardano la giornata economica. Oggi è stata anche la giornata a Davos dell'incontro tra il commissario agli affari economici e monetari Pier Moscovici col ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Moscovici dice è stato un incontro molto positivo, quello che bisogna capire è che noi vogliamo rendere più forte l'Italia con riforme e il rispetto delle regole che coinvolgono la flessibilità. È sempre stato questo e sempre sarà l'atteggiamento della commissione. Padoan parla e dice stiamo gestendo gestendo il debito in modo efficace. Queste le parole del ministro dell'economia. Infine, a chiudere le notizie e poi andiamo ai mercati, ci sono i dati diffusi dall'INPS questa mattina sui voucher, che sono dei dati importanti, perché se ricorderete il ministro del lavoro Giuliano Poletti aveva detto, a fronte dei dati del mese scorso, aveva detto aspettiamo i dati del mese successivo e vediamo un attimo se le nuove regole di tracciabilità che abbiamo deciso di inserire consentiranno di limitare almeno parzialmente il fenomeno, posto che il governo ha già pensato a modifiche. Bene, questo è esattamente quello che è avvenuto, perché l'INPS certifica che con la tracciabilità a dicembre c'è stato uno stop della corsa ai voucher, sono stati 11,4 milioni come nel 2015, a fronte di un aumento che riguarda invece il totale dei mesi presi in esame del 23,9%. Questi dati dell'INPS, che segnala anche un aumento dei licenziamenti disciplinari negli 11 mesi, un più 27%. Siamo dunque alla borsa in una giornata che vede Milano positiva dello 0,7% sul FTSE MIB, dello 0,62% sul FTSE All Share, e negative le altre piazze finanziarie europee, anche se marginalmente. Parigi cede lo 0,25%, Francoforte lo 0,02%, Londra giù dello 0,6%. CEO Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Che giornata è stata? Buongiorno. Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. È stata una giornata abbastanza contrastata in Europa, una mattinata leggermente negativa, poi c'è stata da una parte la decisione della BCE, che era ampiamente attesa, così come erano ampiamente attese le parole di Mario Draghi, che ha confermato, come abbiamo sentito anche prima, la necessità di tenere una politica monetaria ultra espansiva in Europa. Poi è arrivata anche l'apertura leggermente negativa di Wall Street, e alla fine Milano è l'unica piazza europea positiva, trascinata al rialzo dalle banche popolari e da Fiat Chrysler, che continua la sua rimonta. Si può dire che adesso i mercati stiano guardando soprattutto al discorso di Trump di domani, il discorso di insediamento del nuovo presidente americano. Certo, per quanto riguarda i singoli titoli, bene oggi complessivamente le banche, ma soprattutto UBI e Popolare Emilia Romagna, più 7,33, più 5,4 rispettivamente, no? Sì, UBI ha chiuso ieri sera l'acquisto delle tre good bank, ovvero la Popolare dell'Etruria, Carichieti e la Banca delle Marche. Come noto, i termini del contratto sono molto favorevoli per UBI Banca, perché rileverà queste tre banche una volta che saranno state risanate dal punto di vista dei crediti dubbi, che saranno state ricapitalizzate. Insomma, sostanzialmente potrebbe rappresentare, almeno secondo buona parte degli analisti, un ottimo affare per la banca. Non è un caso che dal minimo di fine novembre il titolo ha recuperato l'80% del proprio valore. Restava una delle quattro good bank da risanare, da comprare, era Cariferrara, e Biper è in dirittura d'arrivo per rilevare questo istituto, e anche Biper oggi va molto bene, guadagna il 5,4%. Bene anche Fiat Chrysler, più 4,8%. Sì, c'era stato il crollo nei giorni scorsi, quando si temeva che un Dieselgate di forti dimensioni potesse investire anche la casa automobilistica del Lingotto. Poi via via la cosa sembra apparentemente essersi sgonfiata, e Fiat via via sta recuperando, adesso è a 49,37 euro, quindi piano piano si sta riportando sui valori che aveva prima di quanto era uscito dagli Stati Uniti. Va giù Yux Net-a-Porter, che c'è del 5,05%, giù Luxottica del 2,7%, complessivamente negativo il lusso, no? Sì, è stata una giornata un po' negativa per il lusso, erano titoli che erano andati molto bene nei giorni scorsi, in particolare Luxottica, dopo che era uscita la notizia della fusione con Essilor. Mediaset, che sembrava andar male, poi no, è andata in recupero, più 1,5%. Sì, ci sono un po' di valutazioni su Mediaset. Da una parte il mercato è rimasto un po' deluso da quello che è il piano industriale. C'è anche da dire che il titolo è cresciuto tanto anche su basi speculative nelle ultime settimane, quindi adesso che la situazione si è un po' ingessata, magari poi i valori del titolo non rispecchiano quelli che poi sono i fondamentali della società, e quindi è normale che ci possano essere delle battute d'arresto. In realtà poi il titolo, che era arrivato a perdere il 2,5%, ha chiuso in rialzo dell'1,5%. Sono uscite nuove indiscrezioni sul fatto che addirittura Vivendi possa concentrare le proprie forze su Mediaset in una partita più ampia che coinvolgerebbe anche Telecom Italia. A chiudere generali, più 1,25%. Sì, in questo caso ieri da Davos l'amministratore delegato di Generali Donné ha confermato quelli che erano i target 2016, confermato nella misura in cui ha detto che sostanzialmente, facendo un po' un preconsuntivo dell'anno scorso, che gli obiettivi che il gruppo assicurativo si era posto verranno raggiunti. Tutto ciò in una giornata in Europa comunque positiva per il settore finanziario. Allora grazie dunque a Ceo Condina di Radio Corri Il Sole 24 Ore e dopo questo intermezzo dedicato all'economia e ai mercati, in questo orario torniamo dunque alle vicende che riguardano l'emergenza nel centro Italia, un'emergenza come abbiamo detto che riguarda tanto il maltempo quanto le quattro scosse di terremoto sopra la magnitudo 5 che hanno colpito il centro Italia ieri, soprattutto in un'area dell'Abruzzo, in particolare Campotosto. Abbiamo sentito poco fa il sindaco che ci ha raccontato di una situazione particolarmente difficile. A Campotosto, tra l'altro, è appunto crollato anche un pezzo dell'edificio comunale, questo per quanto riguarda l'Abruzzo. Situazione che si concentra, come si diceva, ancora su Farindola, luogo nella cui frazione Rigopiano una slavina è caduta sull'hotel Rigopiano a 1200 metri di altezza, travolgendo letteralmente l'hotel, dove proprio in questi minuti e in queste ore stanno continuando ovviamente i soccorsi, si sta cercando di scavare nella neve, nelle macerie dell'hotel e presumibilmente anche nei massi, perché probabilmente questa slavina non è stata solamente una slavina, almeno stando a quanto racconta anche qualche geologo, ma insomma probabilmente si è portata via un pezzo di montagna. Non a caso ha di fatto raso al suolo anche il bosco che c'è sopra l'albergo. I boschi normalmente, lo sappiamo tutti, le slavine tendono a frenarle. Sì, tengono, no? Diciamo così, tengono. Tengono normalmente. Allora, questo è il quadro, altri collegamenti e altre dirette subito dopo il traffico. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci di nuovo con il nostro speciale dedicato all'emergenza nel centro Italia. Siamo in linea con Daniele Morini, con il collega Daniele Morini che si trova a Penne e siamo in Abruzzo, dove da quel che apprendiamo, Daniele, si stanno da una parte raccogliendo le persone che aspettano notizie dall'hotel Rigopiano e dall'altra parte si sta tenendo un vertice. Sì, non ancora Simone, perché stanno allestendo proprio in questo momento il palazzetto dello sport di Penne come sede del nuovo centro operativo e di coordinamento per quella che è l'emergenza, appunto. A minuti dovrebbe iniziare sì. Questo vertice sui soccorsi. Ascolta Daniele, tu sei arrivato in realtà da poco là a Penne, vorrei capire anche un attimo come ti sei spostato, perché tra l'altro tu ti sei spostato attraversando alcune delle zone più colpite dal maltempo, perché sei partito dall'Umbria, no? Esattamente, abbiamo cercato questa mattina di fare un giro per capire come questa perversa accoppiata di terremoto e maltempo e neve sta pesantemente condizionando la vita di quelle che sono le popolazioni. Appunto abbiamo toccato località come Visso, come Pieve Torina, nel Maceratese, per poi spostarci qui quando è salita l'emergenza appunto di quello che stava accadendo qui all'hotel Rigopiano di Farindola. Ecco, quello che abbiamo rilevato questa mattina andando a parlare soprattutto con allevatori, ma anche con amministratori, con cittadini comuni, è proprio questa quasi stanchezza, impotenza di fronte a qualcosa che si sta accanendo contro di loro. Impotenza fino alle lacrime, come quelle raccolte da Manuela e Cristina, due sorelle allevatrici proprio tra Pieve Torina e Visso. Siamo saliti con catene alla macchina fino alla loro azienda, stalle inagibili, bestiame ancora disperso per metà nei boschi dove ci sono un metro e mezzo, due anche di neve, dove stanno morendo vitelli, ovini ed altri animali di taglia più piccola. I grandi ancora resistono, ma sono ormai tre giorni che spesso sfidano la mancanza di cibo e la mancanza di acqua da bere, perché di neve ce n'è tanta, ma di acqua da bere congelata non ce n'è. E quindi questa è un po' la situazione, impotenza a tratti, si cerca di fare qualcosa e si ha molta, molta, molto rammarico, molta arrabbiatura per ciò che dovrebbe arrivare per ciò che era stato promesso entro Natale, ad esempio le stalle mobili o comunque degli alloggi per il bestiame, e che ancora per gran parte non è arrivato. Questo è quello che abbiamo registrato nel giro di oggi. Immagino anche rabbia per soccorsi in ritardo, posto che, come dicevamo, forse non è ancora il momento, certamente il momento di far polemiche in questa fase, però immagino un po' di rabbia da questo punto di vista ci sia o no? Sì, lo abbiamo raccontato più volte, dal 26 ottobre in particolare. Questa è gente, allevatori, contadini, ma anche persone comuni, è gente molto testarda, caparbia, le cose le fa prima da sola e quando poi non vede che non riesce ad arrivare magari cerca aiuto. Ecco, siamo andati oltre il poter fare da soli, adesso veramente stanno chiedendo un aiuto che per il momento non è detto che non arriva, perché abbiamo visto tante persone, tante forze dell'ordine, l'esercito, i carabinieri, soccorso alpino, guardia di finanza, tutti mobilitati però è chiaro che con la neve, il ghiaccio, il gelo ci vogliono strumenti particolari, strumenti specifici. Ad esempio abbiamo registrato che era in viaggio questa mattina, sta arrivando in queste ore una colonna mobile. Ti interrompo, Daniele, perché sì, è in corso il punto stampa della Protezione Civile, vediamo se riusciamo a pescarlo da Sky. Positivo che se non intervengono altri fattori o questioni tecniche che al momento non prevediamo, ci porteranno nel corso della fine di questa giornata ad annullare, ci auguriamo, ma comunque a ridurre drasticamente il numero di disalimentazioni nelle Marche e a ridurre anche in maniera consistente il numero di utenze disalimentate in Abruzzo. Questo grazie ad un'azione anche in questo caso molto complicata dei tecnici del settore, supportati da chi può in alcune condizioni fare trasporti eccezionali, intervenire su una viabilità che sappiamo essere stata fortemente coinvolta dal fenomeno neve che in questo momento impedisce in alcuni casi, in numerosi casi, una viabilità ordinaria. Quello di cui ci siamo accertati in queste ore, ma è un lavoro che non terminerà e che continueremo a monitorare costantemente, e che non ci siano situazioni, punte di situazioni critiche, di interventi di soccorso immediato che non si possono fare. Quindi stiamo cercando di garantire dovunque l'arrivo di mezzi di soccorso laddove necessario. In alcuni casi si è riusciti invece proprio a intervenire anche la possibilità di ridare comunque una viabilità anche non agevole, ma comunque diciamo affrontabile dalla popolazione. Questo sul fronte chiaramente più tecnico dei servizi. Inutile dire che la presenza di questo manto nevoso straordinario, perché stiamo parlando di un fenomeno che per durata, per intensità e quindi per conseguenze accumulo, è un fenomeno assolutamente straordinario in un territorio che già conoscevamo come in grande difficoltà. Chiaramente questo fenomeno ci impone anche di andare a verificare le condizioni di sicurezza complessiva, che sono le condizioni di sicurezza dei versanti e quindi in particolare il tema delle valanghe. Del resto non può che essere così. Ricordiamo che ad esempio il sindaco di Bolognola ieri ha deciso una evacuazione importante di parte della sua popolazione, proprio perché parte del territorio è esposto a questo rischio che ha un livello molto alto in questo momento. Quindi c'è il tema valanghe, c'è il tema anche legato al fatto che le temperature si stanno alzando, e questo è pericoloso sia per le valanghe ma più in generale anche per lo scioglimento delle nevi. Quindi sono già in corso operazioni di monitoraggio continuo di corsi d'acqua e comunque di fenomeni di alluvionamento che abbiamo già registrato, in aggiunta al fatto che questa neve che si poggia sulle strutture, sui tetti, impone poi un'azione anche di alleggerimento delle strutture per evitare poi quelli che potrebbero essere effetti nocivi. Solo che tutto questo, che ordinariamente si fa per grandi nevicate in situazioni non di eventi sismici in atto, è oggi complicato da questa azione. Quindi scegliere tra alleggerire il tetto dalla neve e fare un intervento pericoloso su un tetto, a valle degli eventi sismici che abbiamo registrato, capite bene che è un'operazione complessa che richiede la giusta attenzione e la giusta valutazione. Quindi su questo sono coinvolti tutti, i sindaci, le regioni, noi con tutte le forze che sono intervenute. Vi dicevo sulla viabilità, sono gli altri interventi importanti che si stanno facendo, sia per raggiungere le frazioni, sia per ridare un po' di respiro a un territorio che è fortemente stressato. Abbiamo delle buone notizie, nelle ultime ore una serie di strade statali importanti sono state riaperte grazie a un lavoro molto, molto intenso. Ne cito alcune: la SS81, siamo nel Teramano, nella zona di Penna Sant'Andrea, la SS696, che è quella invece del fronte più aquilano tra Rocca di Mezzo e Celano, una strada importante che abbiamo imparato a conoscere durante la sequenza sismica, che è la 77 VAR, quella che da Spoleto porta alla costa e quindi che taglia tutta l'area del terremoto. Così come stiamo lavorando in maniera molto, molto attenta e intensa sulla SS4, sulla Salaria, che sappiamo è viabilità principale e che sul tratto di Arquata a Quasanta oggi è aperta soltanto ai mezzi di soccorso, quindi siamo particolarmente impegnati anche su questo. Queste direi le novità e questo è il punto da Titti Postiglione, che è la responsabile emergenza della protezione civile. Avevamo tra l'altro in linea il sindaco di Teramo, che abbiamo lasciato perché adesso abbiamo la pausa, lo ritroveremo subito dopo per farci dare un punto anche da lui sulla situazione. Cercheremo di raggiungere anche Rigopiano, siamo in contatto con alcuni dei soccorritori, vedremo se riusciremo a raggiungerli in queste ore. Intanto ci fermiamo, c'è la pausa, GR24, e poi torniamo con lo speciale. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci di nuovo per la seconda parte di questo speciale che stiamo dedicando all'emergenza nel centro Italia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, in studio con me Laura Bettini per gli aggiornamenti, buonasera. E non solo per quelli, naturalmente in conduzione con me di questo speciale. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, 800-24-0024 se ci volete telefonare in diretta anche per testimonianze, racconti o quello che volete. Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo, che abbiamo lasciato in sospeso. Buonasera, eccoci. Buonasera. Allora, come vanno le cose? Poi, tra l'altro, abbiamo anche fatto sentire un passaggio dell'intervento in diretta di Titti Postiglione, della Protezione Civile. Ma guardi, le cose non vanno bene, perché noi i mezzi sono arrivati dei mezzi, ma sono insufficienti. Io sono tornato proprio adesso e abbiamo finalmente raggiunto una frazione isolata oramai da 4 giorni. Però adesso abbiamo il problema che ci sono case sparse isolate che hanno finito il carburante dei gruppi elettrogeni personali e che sono in grandi difficoltà con bimbi piccoli, e oramai è scesa la notte e quindi il problema è amplificato e davvero, davvero cominciamo ad essere in difficoltà. Continua l'emergenza energia elettrica perché non è migliorata, è migliorata di poco, ma insomma abbiamo ancora tante zone senza energia elettrica e quindi senza riscaldamento e quindi al freddo. In alcune case sappiamo che cominciano a scarseggiare anche i viveri, quindi davvero la situazione comincia a farsi difficile, perché diventa difficile raggiungere questi posti. Per raggiungere questa frazione di Teramo sono 2 giorni, oggi pomeriggio, cioè ero presente anch'io personalmente, siamo arrivati al centro di questa frazione dove c'erano muri di 3 metri di neve. Quindi davvero situazioni drammatiche, cominciano purtroppo già le prime frane anche nella città di Teramo, c'è anche un po' di emergenza d'acqua. Frane vere e proprie, sindaco dice? Balanghe, sì. Frane, cosa? Cominciano le frane perché il terreno è imbibito d'acqua e nelle zone che già erano a rischio prima iniziano le frane. Ne abbiamo una proprio in pieno centro, lungo una scarpata, diciamo su una circonvallazione, ma ne abbiamo anche diverse su tutto il territorio, ma questa sarà una conseguenza naturale che avverrà nei prossimi giorni. E adesso l'esercito è venuto con ulteriori mezzi, stasera sono arrivati altri 3 mezzi, quindi insomma c'è da lavorare, c'è un grandissimo lavoro da fare, però il problema è che facciamo difficoltà a raggiungere case isolate, case sparse, ci sono problemi anche per il bestiame, perché gli allevatori non vanno, non riescono a raggiungere i propri allevamenti oramai da giorni. C'è anche un po' di carenza idrica in alcune zone, perché abbiamo dovuto privilegiare gli ospedali e in alcune zone della città è mancata l'acqua. Quindi davvero una regione e una città in ginocchio. Sindaco, quante famiglie non siete riusciti a raggiungere? Riesce a darci un numero? Siamo nell'ordine delle decine. Sono dell'ordine delle migliaia. Diciamo che oggi la situazione è migliorata. Ieri cioè migliaia di famiglie che non riuscite a raggiungere proprio? Di persone. Poi sulle famiglie saranno... Comunque siamo negli ordini... Fino a stamattina eravamo nell'ordine di 8-9 mila famiglie, 8-9 mila persone, che poi noi non sappiamo quante persone ci sono all'interno di ogni abitazione, però sappiamo più o meno da quanti sono formati i nuclei familiari. Oggi abbiamo raggiunto alcune frazioni, diciamo, dove c'erano in una frazione 21 famiglie, in un'altra 30 famiglie, però adesso comincia ad esserci il problema delle case sparse, perché sono case isolate, che non sappiamo nemmeno se le persone sono ancora vive. Cioè, davvero comincia ad essere, perché i telefoni non ci sono, non si possono più raggiungere, non c'è corrente elettrica. E quindi questo adesso è il problema, diciamo, più serio che stiamo affrontando, poi al netto di tutti gli altri, ma che sono davvero secondari, perché adesso bisogna pensare a raggiungere queste persone. Che è l'aspetto più importante, perché il territorio teramano è un territorio molto vasto, è una città di 56.000 abitanti come comune, che però si allarga su un territorio vastissimo, collinare, quasi tutto collinare, perché Teramo è a ridosso proprio delle pendici del Gran Sasso, quindi è collinare in zone dove ci sono 3 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri di neve. Questo è Teramo. Poi se parliamo di tutto l'Interland della provincia, dove sono 47 comuni, comuni dove la neve arriva all'altezza del copre le case. Allora, sono ancora arrivati. Allora, queste strade le sta percorrendo in queste ore anche Gabriele Perfetti, che è presidente della Croce Rossa Abruzzese e che abbiamo già avuto in onda oggi alle 13, che io ringrazio per essere tornato da noi. Buonasera Perfetti, benvenuto. Sì, buonasera a tutti quanti. Salve. Allora, prima però di parlare con lei, se permette, c'è la nostra Raffaella Calandra che ha raccolto una testimonianza importante in merito al fatto sul quale sono puntati i riflettori in queste ore, che è la vicenda dell'hotel Rigopiano, la frazione più alta del comune di Farindola, nel quale c'è un hotel, lo abbiamo raccontato, che è stato investito da una slavina, probabilmente da una frana, e ci sono 30 persone, una trentina di persone disperse. Anche qua i numeri esatti non si sanno, si sono riuscite a estrarre 4 persone morte, però Raffaella, che testimonianza hai raccolto? Io sono riuscita poco fa a parlare con il padre di una donna tuttora dispersa, che è la responsabile del centro benessere dell'albergo che è stato travolto dalla slavina, che appunto è in attesa di informazioni, in apprensione, ma soprattutto ci ha detto che nelle ultime comunicazioni ricevute dalla figlia avevano dato questo segnale, questa richiesta di soccorso, soprattutto perché erano bloccati, ma la risposta che avevano ricevuto era stata: ci sono altre priorità. Sentiamolo. Siamo tutti all'oscuro, non sappiamo niente, di niente proprio. Sua figlia lavora all'interno dell'albergo? Sì, lavora al centro benessere, sì. E lei quando è stato l'ultima volta che l'ha sentita? Ieri sera alle 4, un messaggio, solo un messaggio, perché i telefoni non funzionavano. E le aveva raccontato di questa neve forte che c'era? Sì, ma perché tu era bloccato, loro da ieri mattina chiedevano che dovevano essere sbloccati, ma hanno risposto che c'era altre priorità e hanno abbandonato a pulire su. E l'albergo funzionava completamente, quindi anche nel centro benessere? Sì. E sua figlia? Stava lì apposta, perché funzionava pure, cioè è responsabile del centro benessere mia figlia. Sua figlia era responsabile del centro benessere, ho capito. Sì, stavano a 20, a 25, più 8 dipendenti, 8-9 dipendenti. Voi adesso siete lì davanti all'albergo in attesa di notizie? No, all'albergo non ci fanno salire, siamo qua davanti alla televisione, siamo a casa, con la speranza che viene qualche bella notizia, ma qua non sappiamo niente. Ci sono molte altre persone del paese che lavorano lì e di cui adesso non si hanno notizie? Di cui tanti giovani sono scesi, mentre mia figlia doveva stare là, perché giustamente se c'era qualcuno che doveva stare alla SPA, doveva essere lei a fare quello che doveva fare. Era preoccupata sua figlia quando l'ha sentita lei l'ultima volta? No, perché la sua è tranquilla, non è che... Era una posizione che non si poteva mai pensare a una valanga che potesse colpire l'albergo. Però le aveva detto che avevano chiesto di essere, diciamo, liberati? Sì, dopo il terremoto, perché la sua ha fatto forte, giustamente, hanno chiesto aiuto, hanno chiesto che volevano riscendere. C'erano 3 metri di neve, come scendevo. Quindi però si sentivano come prigionieri di quella neve per il terremoto? Sì. Questo dunque è il racconto raccolto dalla nostra Raffaella Calandra. Chiedo a Gabriele Perfetti ancora un attimo di pazienza. Il traffico, che vuol dire anche evidentemente le strade colpite dal maltempo in queste ore, e poi ci faremo raccontare un quadro un po' più generale della Croce Rossa, che sta intervenendo con forza non solo in quelle aree, tra l'altro anche nelle aree colpite dal terremoto, anche nell'Umbria e nelle Marche, però appunto siamo in linea con Perfetti, il presidente della Croce Rossa abruzzese, ed è sull'Abruzzo che ci concentreremo. Pausa. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci di nuovo dunque con Gabriele Perfetti, presidente della Croce Rossa abruzzese. Allora Perfetti, ha sentito il sindaco di Teramo? Sono strade che lei ha percorso, l'abbiamo sentita oggi mentre scendeva da Campo Tosto proprio a Teramo. Il quadro della situazione dal vostro punto di vista? Sì, noi stiamo cercando di fare del nostro meglio, a seguito anche delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dell'esercito, e lì dove possiamo intervenire lo facciamo chiaramente con forza e con l'auspicio e la speranza di portare veramente sollievo. Siamo riusciti anche a rifornire, come ci eravamo lasciati appunto poc'anzi, di acqua Campotosto, grazie anche ai mezzi dei carabinieri che stanno distribuendo appunto quest'acqua che è arrivata dall'interporto di Avezzano della Croce Rossa Italiana, e poi loro appunto si provvedono a distribuire non solo l'acqua, provvedono a distribuire tutto quello che è necessario. Appunto, come diceva lei, come ricordava lei, riguardo alla Croce Rossa stiamo intervenendo dappertutto, siamo sul Teramano, sull'Aquilano, sul Teatino. Migliaia ormai ed sono anche, gli interventi. Perfetti, ed è anche difficile intervenire, no? Non è assolutamente facile. Io vorrei appunto ricordare che si tratta veramente di una ondata di maltempo straordinaria. Ci sono le persone molto più anziane di me che non ricordano affatto un simile evento nei decenni precedenti, e quindi non è facile intervenire. C'è l'esercito, c'è l'ANAS che tentano appunto di aprire dei varchi, e lì dove è possibile noi arriviamo e cerchiamo appunto di dare del nostro meglio. Tra l'altro consideri che abbiamo lanciato l'appello e la Croce Rossa Italiana sta rispondendo, mandando, inviando non solo personale ma anche mezzi adeguati. Vorrei ricordare ad esempio che abbiamo con noi le motoslitte e gli operatori neve che sono venuti giù da Courmayeur. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma non è facile, mi creda, perché il tempo non ce lo permette, e mi rendo conto che tutte quelle famiglie che continuano a lanciare appelli e di aiuto sono lì in attesa, ma non ce la facciamo, anche perché dobbiamo per forza aspettare che qualcuno apra dei varchi. Però facciamo del nostro meglio e ci rendiamo conto, insomma, che da parte di chi si sta adoperando con imprese eroiche, aspettiamo che loro aprano dei varchi, e lì dove è possibile arriviamo, interveniamo, portiamo dei viveri, portiamo acqua, portiamo coperte, abbiamo allestito anche dei rifugi lì dove i sindaci hanno chiesto il nostro ausilio. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio e di garantire appunto sollievo e soprattutto cerchiamo di alimentare anche quelle che sono le speranze di chi attende il rientro a casa di qualche affetto. Allora io la ringrazio, grazie a Gabriele Perfetti che è il presidente della Croce Rossa Abruzzese. Sempre con la Croce Rossa noi siamo in linea, però cercando di allargare lo sguardo e di andare oltre l'Abruzzo, del quale abbiamo parlato tantissimo in questi minuti per ovvi motivi, e però ci sono molte altre zone in difficoltà piegate dal mix del terremoto e del maltempo, e parliamo di alcune aree dell'Umbria, in particolare i Monti Sibillini, parliamo dell'area di Amatrice, del Reatino, e parliamo naturalmente delle Marche. Lisa Fantozzi è responsabile dell'unità terremoto della Croce Rossa. Buongiorno, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, buonasera a voi. Lasciamo per un attimo fuori l'Abruzzo, per quanto sia il luogo centrale, no, dell'emergenza di queste ore, di questa emergenza nel centro Italia, e le chiedo di darci un quadro della situazione, perché mi sembra che la situazione sia molto difficile. Rischiamo, se vogliamo, anche di perdere di vista quello che sta succedendo in altri luoghi nei quali altrettanto non si riescono a raggiungere le frazioni, ci sono famiglie isolate, difficoltà nel reperire viveri, acqua, elettricità. Prego. Allora sì, dunque, è indubbio, come diceva il mio collega Gabriele poco fa, che l'Abruzzo si trova in una delle situazioni più precarie al momento, assieme ovviamente alla zona di Amatrice, dove la neve è copiosa e dove già da ieri sera, per poter fare arrivare i mezzi del corpo militare di Croce Rossa, ci sono state notevoli difficoltà. Sono stati inviati degli spazzaneve, sono state inviate delle turbine per poter appunto spostare grosse quantità di neve, e ieri sera per esempio questa operazione non è stata possibile, ma è iniziata solamente oggi. Abbiamo seguito oggi delle operazioni di salvataggio sempre nella zona di Amatrice, in località Saletta, di un allevatore che appunto si trovava in situazioni critiche, e tutta la zona intorno ad Amatrice presenta una serie di difficoltà, perché appunto oltre a dei crolli ci sono delle grosse difficoltà di tipo logistico per poter raggiungere la zona, dovute a metri di neve che appunto non si sono mai registrati prima d'ora. E nelle Marche, la zona che risulta essere al momento più colpita dalla neve, che presenta maggiore difficoltà, è sicuramente la zona della provincia di Ascoli Piceno. Infatti noi abbiamo mobilitato tutti i nostri mezzi 4x4 che già si trovavano nella regione attraverso la collaborazione con il presidente regionale Fabio Cicconi, ha cercato di spostarli più verso l'Ascolano per poter agevolare determinate operazioni, e perché sono gli unici mezzi che ci permettono di poter raggiungere le frazioni isolate, quelle più a rischio, quelle dove comunque non c'è l'elettricità e dove spesso e volentieri ci sono persone che hanno comunque bisogno di assistenza immediata. Poi per quanto riguarda la situazione dell'hotel con i turisti bloccati dalla slavina, che appunto è stato attrezzato un posto medico avanzato proprio nelle vicinanze per poter assistere i superstiti mano a mano che vengono salvati da questa situazione. Sperando che lo siano, naturalmente, perché insomma evidentemente la situazione è particolarmente difficile. Io intanto la ringrazio, grazie a Lisa Fantozzi, responsabile dell'unità terremoto della Croce Rossa, per questo aggiornamento importante. Invece proprio sulla vicenda dell'hotel, Raffaella Calandra, ci sono altri elementi che emergono in questi minuti, no? In attesa chiaramente che la cosa più importante, ossia che si raggiungano le persone che sono tuttora bloccate all'interno dell'albergo, c'è da far chiarezza anche sui tempi degli arrivi dei soccorsi, perché come abbiamo sentito anche dal padre di una delle disperse, era stata mandata questa richiesta per un intervento di uno spazzaneve, che però il cui arrivo è stato progressivamente rimandato, come avete già ricordato, di ora in ora nella giornata di ieri, e questo in qualche modo ha bloccato alle persone, agli ospiti, alle persone che lavorano nell'albergo, di uscire. Dall'altra parte c'è anche il racconto di un professor Quintino Marcella, che ha ricevuto il messaggio di un suo cuoco che in lacrime la notte la scorsa notte gli ha avvisato di questa, della situazione in cui si trovavano. Lui ha raccontato di il sopravvissuto. Questo professore, che è un ristoratore di Silvi Marina, ha raccontato di aver diffuso, diciamo, in giro questo allarme, ma a suo dire di non essere stato fino in fondo creduto. Questa sicuramente è una vicenda che va chiarita. Quanto invece al fatto che lo spazzaneve non arrivasse, io posso anche capire che in quel momento il terremoto aveva, no, spostato necessariamente i mezzi di soccorso su altre aree, mentre lì non c'era un'emergenza immediata per il terremoto. È successo poi quello che è successo nelle ore successive. Paride Ciotti, sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, che è un comune che è a pochissimi chilometri in linea d'aria dal luogo dove sono avvenuti i fatti, ma che è un comune in grandissima difficoltà, ce l'ha già testimoniato oggi alle 13. Come vanno le cose adesso, sindaco? Buonasera. Guardi, stiamo aspettando la protezione civile che ci porta due gruppi elettrogeni, perché la popolazione è al buio già da di giorni. La strada non è completamente aperta, però insomma comunque è raggiungibile il paese. Mi hanno assicurato dalla protezione civile che domani mattina manderanno una turbina, per cui ecco, siamo in attesa. Quindi siete in attesa. Elettricità ce l'avete, acqua ce l'avete, viveri ce l'avete? Elettricità, vi stavo dicendo che non ce l'abbiamo da due giorni, stiamo aspettando i gruppi elettrogeni. L'acqua ce l'abbiamo. Acqua ce l'avete, da quel punto di vista siete a posto, viveri ce l'avete, sì. Sì, dal punto di vista così, perché diciamo che noi siamo attrezzati, perché sono poche persone che comunque... Mi scusi, le frazioni sono state raggiunte? No, noi abbiamo solo una frazione, sì, Carrufo, che di Villa Santa Lucia ha raggiunto, è lo stesso, e un gruppo elettrogeno andrà lì e uno andrà a Villa Santa Lucia. Abbiamo anche noi una slavina, però insomma non è interessato il centro abitato, e comunque noi stiamo proprio, diciamo così, di spalle a Farindola. Allora, io la ringrazio, grazie a Paride Ciotti, sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, un posto dove comunque la situazione piano piano si sta assestando, e quindi con questa nota, per così dire, di speranza, sperando che rimanga tale, chiudiamo qui questo speciale. I ringraziamenti vanno a Roberta Frisani in regia, Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Matteo Ramelli in assistenza e in redazione. Io vi auguro una buona serata. Grazie Simone, grazie agli ascoltatori e a Raffaella, che è arrivata con le ultime novità. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi, buonasera a tutti. Linea dunque alla Zanzara, e poi vi aggiorneremo ovviamente. Ci sarà anche uno speciale in onda dalle 21 alle 23, condotto da Roberta Giordano, uno speciale Effetto Notte. Anche là, microfono aperti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Una buona serata da Simone Spezia.